La moralità non è propriamente la dottrina del come renderci felici, ma di come dovremmo diventare degni di possedere la felicità. Immanuel Kant. Di tutto un podcast. Una trasmissione ideata e condotta da Simone Pizzi e Michela De Paola. Bentornati ascoltatori di tutto un podcast. E allora, bentornati a tutti un'altra volta. Si è svegliata, Simone. Si è svegliata Michela appena in tempo per la trasmissione. Attenzione, perché tra lei che si è svegliata adesso e io che ho una tosse da 48 ore, speriamo di riuscire a portare a termine questa puntata. Sembra di stare in un ospizio che è a casa Pizzi. Ciao Michela. Ciao a tutti. Tutto bene, diciamo, siamo sopravvissuti a questa settimana. Sì, sei contenta del ritorno? Sì. Come pensi che sia andata? Io penso che sia andata benino, perché era iniziata male. Poi boom, siamo tornati, insomma, ai vecchi fasti. Ma forse qualcosa di più, trainati ovviamente da tutto il resto, insomma, però dai, siamo contenti. Chiunque sia arrivato adesso, magari che non ci conosceva prima, lo salutiamo in modo più caloroso, ma salutiamo soprattutto i nostri ascoltatori. Tutti gli ascoltatori di IPN, però dai, sì. O IPN. Tutti gli ascoltatori di IPN. E dobbiamo comunque fare un piccolo appunto. Ci dispiace perché la volta scorsa abbiamo annunciato una puntata con i ragazzi di Nowherecast su Vittorio Arrigoni, i quali ci avrebbero parlato di Arrigoni e della loro esperienza con Vittorio. Però siamo stati un po' frettolosi perché avevamo quasi organizzato tutto, ma non abbiamo potuto farlo, non adesso. Ringraziamo Matt in particolare che si era reso disponibile e ci scusiamo per i vari inconvenienti, soprattutto per il fatto che comunque Simone non è stato bene questa settimana, quindi abbiamo dovuto spostare un po' tutto. Ci scusiamo prima di tutto con loro perché, avendolo noi annunciato anticipatamente, sembrava che poi il problema potesse derivare da loro. In realtà il problema è stato semplicemente il nostro, anche per averlo solo annunciato anticipatamente. Sì, e comunque vi consigliamo intanto di andare sul loro sito, perché ho appena visto che c'è una nuova puntata, una puntata speciale sempre dedicata a Vittorio, un'intervista con qualcuno che lo conosceva molto bene, in inglese tra l'altro, quindi insomma è veramente interessante anche ascoltare come Matt parla inglese. Sì, anche questa la linkeremo nelle note dell'episodio, sì. Come abbiamo fatto con la famosa puntata della volta scorsa, con la famosa puntata dell'intervista direttamente che hanno fatto loro a Vittorio. E poi che altro dire? Allora, si sono sposati Kate e William, c'è stata la beatificazione di Giovanni Paolo II. Tutte cose che ci interessano molto. Noi ce ne frega una cifra, proprio per dirlo come lo dicono a Vienna. Possiamo semplicemente constatare il fatto che in Siria continua il massacro del regime, sì, nei confronti dei protestanti, e l'Europa e le Nazioni Unite se ne fregano. Ma purtroppo questa non è la puntata adatta anche per parlare di queste cose, forse poi prossimamente magari ne riparleremo in maniera un po' più accurata. Nel frattempo diciamo due cose. Innanzitutto Ringraziamo tutti quelli che ci hanno fatto i complimenti per il tono rock, del nuovo tono rock di tutto un podcast. E questa sarà una puntata un po' strana, perché in realtà è una puntata musicale. Sì. Dove facciamo un'intervista a una ragazza, sì, che fa musica elettronica. Sì. Dopo ne parliamo, magari un po' meglio, la presentiamo meglio. E per compensare, allora ho messo una marea di brani rock per poi ho dopo. Ho scelto così tutti lui i brani, ragazzi, non l'ho neanche ascoltati, esatto, quindi mi libero da ogni responsabilità. Era questo che volevo dire, che di solito il direttore artistico, quindi le scelte musicali della trasmissione è Michela. Questa volta Michela ha avuto magari un po' più da fare, io ho avuto un po' più di tempo, e siccome che volevo delle sonorità a compensazione, diciamo, di quello che ascolteremo in questa intervista, no, non ce ne voglia poi la nostra ospite, scherziamo, però insomma rifarsi le orecchie ogni tanto non fa male. Bene, io direi che dopo questa esclamazione andiamo proprio ad ascoltare un brano. Ascoltiamo i Crazy Outlook con Trivial Details. Curioso. Anni fa, Daniele Luttazzi, il comico, portò in televisione un giornalista che aveva da poco pubblicato un libro, L'odore dei soldi, nel quale si chiedeva conto dell'origine della fortuna economica di Silvio Berlusconi. Era il marzo del 2001 e fu una sorta di punto di non ritorno che avrebbe aperto la strada all'epurazione dello stesso Luttazzi, di Biagi e di Santoro, e alla nascita del famoso uso criminoso del servizio pubblico, tanto caro al nostro Presidente del Consiglio, È curioso. Sono passati 10 anni. Biagi è morto. Luttazzi quasi, telesiamente parlando si intende, mentre Santoro è ancora saldo al suo posto, guarda caso, insieme proprio a quel giornalista, Marco Travaglio. Me la ricordo quella intervista. Travaglio fu brillante, arguto, a suo agio in televisione, preparato e sicuramente coraggioso. Sembrava stesse rischiando tanto, e invece, probabilmente aveva fatto bene i suoi calcoli. Aveva scelto da quale parte stare, quella apparentemente meno conveniente. Personalmente metto nei brividi alcune sue risposte date a Vanity Fair in una recente intervista. Se non è di sinistra, perché continua a lavorare in giornali e trasmissioni di quell'area politica? E Travaglio risponde: perché mentre gli elettori di destra sono uguali ai loro politici, gli elettori di sinistra sono meglio della loro classe dirigente, più aperti. E ancora: quindi fra lei e Santoro non c'è differenza? Si sbaglia, dice Travaglio. C'è. Michele appartiene ideologicamente al 68. Se io fossi stato grande in quegli anni, avrei finito per stare dalla parte dei Cederini. Curioso. Come a dire, il pubblico più interessante è quello di sinistra. Sicuramente è quello più remunerativo, perché se stimolato ti segue, è fedele, partecipativo, vieni a teatro anche se fai spettacoli noiosi o se vai nelle piazze a rendere onore al populismo. Quindi, capito cosa vuole il tuo pubblico, glielo dai e il gioco è fatto. E allora cosa c'è di male? Nulla, nessun appunto, operazione perfettamente riuscita. In fondo Berlusconi è da sempre una grande occasione di lavoro per molti. Quello che io mi chiedo, sono davvero questi i personaggi di cui abbiamo bisogno? La famosa base, li ha eletti a propri eroi, baluardi contro il berlusconismo. Personaggi che scrivevano su Il Borghese, come Travaglio, o ex poliziotti come Di Pietro, o come Grillo, comici e populisti. Beh, io credo che bisogna fare attenzione, perché non può essere questa gente a rappresentare un'alternativa al berlusconismo, a indicare una strada nuova. Non è di una deriva populista che abbiamo bisogno. Bisogna fare attenzione a scegliere i propri eroi, perché sennò succede che mentre i veri uomini muoiono soffocati in paesi lontani, dimenticati, gli eroi posino per la copertina di Vanity Fair. Honest Lover. Oh, è un po' di sonorità, un po' di rock che finalmente, cioè, ogni tanto mi tocca prendere il possesso della trasmissione. Questi erano i Crate Boom, intanto lo dico perché sennò poi fra due secondi mi sono scordato. E mi piace ogni tanto buttare un po' di rock and roll, un po' rustico, un po' rozzo. Magari sicuramente le selezioni non saranno qualitative come quelle di Michela, però insomma, dai, ogni tanto, che poi lei era partita con il rock, poi ultimamente gli ha preso sta deriva un po', non so, quasi Irish, un po' Melody, un po' The Scanawets, un po' di qualità. Vabbè, a qualità, perché c'è qualcuno che dice che ultimamente non c'è qualità, invece io ne ho trovata parecchia. Ma rifacciamo una polemica con persone che sì, sono amiche, che poi non sono più amiche, poi sono amiche e... No, salutiamo Luca Casciola, nome sì, e cognome, ci vogliamo tanto bene. Ci vogliamo bene a Luca. Però Casciola, insomma, vivaggiamento. Ok, allora, dicevamo rock e dicevamo invece musica elettronica. Abbiamo fatto un'intervista, abbiamo conosciuto un artista anche insomma di fama internazionale che produce musica elettronica. L'intervista totalmente gestita e condotta da Michela, quindi insomma, come è prassi, è giusto che Michela insomma ce la introduca. Sì, vi vogliamo presentare questa artista. Lei è nel diciamo che così, nella vita reale si fa chiamare Ketty, perché si chiama così. Il nome artistico dovrebbe essere Kay, mi pare. Sì, Kay, sì. Sì. Siamo molto informati dell'artista che abbiamo intervistato. No, non è vero. È che l'intervista è stata registrata molto da molto tempo. Mesi e mesi fa. Sì, da un paio di mesi. E quindi insomma qualcosa mi è sfuggito. Però insomma posso dirvi che la musica è veramente molto diversa dal tipo di musica che di solito passiamo qui a di tutto un podcast, ma è di ottima qualità. E Ketty ci dimostra come esce fuori comunque un buon prodotto dalla musica comunque elettronica, perché questo è quello che fa lei, e ci racconta il suo viaggio proprio nella musica elettronica, nel mondo della produzione. Posso dire una cosa? Della musica elettronica. Posso dire una cosa? Sì. Di qualità senza meno. Musica. Ma no, vai, non si dicono queste cose. Scusate, ma ci abbiamo sempre l'aterosclerosi che avanza. C'è un momento di imbarazzo. Sì. E vabbè, cominciamo ad ascoltare l'intervista. Dai, sentiamo tutti insieme l'intervista e poi magari i commenti ce li farete voi. Fateci sapere se vi è piaciuta questa ragazza. E poi sulle note della puntata ovviamente troverete tutti i link, tutti i collegamenti per raggiungerla, insomma. E anche... Se ritroviamo il foglietto, però. Se ritroviamo gli appunti, altrimenti le note saranno disponibili da lunedì o da martedì, però ci saranno, insomma. Ah, però ci siamo dimenticati una cosa importante, Michela. M il mostro, avete sentito quella cosa un po' terrificante? Sì, all'inizio? Sì. Un altro inserto che si introduce all'interno di tutto un podcast, forse un po' meno spazio per noi, più spazio per le rubriche, ma insomma rubriche di qualità, no? Quindi di che si tratta M il mostro? Semplicemente che questo mostro che fa? Ci espone le sue opinioni. Ci fa sentire le sue opinioni. Che noi condividiamo, chiaramente. Noi condividiamo, e che molta gente non lo dice, però condivide anche lei. È un po' la voce fuori dal coro che comunque si fa sentire. E siamo contenti che sia voluto intervenire nella nostra modestissima trasmissione. Ok, allora dai, ascoltiamoci Kay e la sua intervista, ma soprattutto la sua musica. Bentornati qui a Di Tutto un Podcast, oggi puntata di intervista, come è spesso comune qui da queste parti. Un'intervista particolare, perché torniamo a parlare di musica, un argomento che ci piace veramente tanto e lo facciamo in un modo un po' insolito, non tanto per il modo in cui verrà presentata, ma per la musica che vi presentiamo. Siamo qui con Katty. Ciao! Che salutiamo e a cui diamo il benvenuto. Katty è una musicista e cantante anche molto brava. Grazie. Che fa musica elettronica. Allora, Katty, vuoi presentarti un pochettino? Allora, sì, vabbè, il mio approccio con la musica inizia veramente molto presto, perché all'età di circa 6 anni mio zio mi regalò un piccolo organo della Bontempi elettronico. E quindi io suonavo tutto quello che sentivo, però la musica che si sentiva a casa da mio zio era prettamente musica tipo Genesis, Pink Floyd, Mike Oldfield, per cui la mia influenza risale un po' anche a quello. Ho iniziato poi, vabbè, la mia passione soprattutto era quella di mettere i dischi, fare appunto la DJ, un sogno che ho sempre avuto, che poi col tempo sono riuscita a realizzare. E comunque appunto mi sono data anche a produzioni, collaborazioni con diversi personaggi sia romani che okay. locali che stranieri. Ok, senti Katty, io direi di fare una cosa. Prima di iniziare a parlare di te, quindi di addentrarci proprio nell'ambito del tuo delle tue opere e delle tue collaborazioni, anche piuttosto importanti, facciamo così, facciamo capire agli ascoltatori di cosa stiamo parlando. Partiamo con il primo brano. Ok, allora vuoi presentarcelo? Sì, sì. Il primo brano si chiama Vampire ed è tratto dal disco High Heel Shoes, uscito per l'etichetta inglese della Sun Bizarre, meglio nota per essere anche l'etichetta di Mark Almond, degli Astors and the Neubauten, insomma, sono uscite diverse cose con questa label. E questo pezzo si chiama appunto Vampire, parla dei vampiri che sono la mia più grande passione. E niente, gustatevelo. Ok, buon ascolto. Forget the time, join me, be one of Allora Ghetti, bel brano, complimenti, perché uno qua c'è stato un piccolo, una piccola discussione prima, quando si parla di musica elettronica insomma si fa difficoltà a uscire un po' dagli schemi, nel senso che musica elettronica è solo due musichette messe insieme, e invece abbiamo visto che comunque c'è molto impegno, c'è molto lavoro e è anche un bel pezzo molto ben riuscito. Grazie. Ma in realtà il discorso di musica elettronica sarebbe molto vasto da affrontare, anche perché ormai ha circa 130 o 140 anni dal suo esordio, quindi insomma è una bella storia ampia, da ci sono diversi personaggi importanti tra cui Stockhausen, i più noti Kraftwerk o i Depeche Mode, per citarne alcuni. Ci sono cose più estreme, cose più orecchiabili, e sicuramente magari questo non è uno dei pezzi più estremi, però per qualcuno può risultare magari difficile come primo approccio. E a proposito di musica elettronica, dai, approfondiamo un attimo questo argomento, poi magari parliamo di te. Ci hai parlato di qualche gruppo così, e ci hai detto una cosa importante, 140 anni. Io per esempio non immaginavo proprio una cosa del genere. Sì, perché in realtà la nascita del primo strumento elettronico risale intorno al 1890 o giù di lì. E organizzai per l'appunto a Zurigo, insieme a Max Durante, che è un noto DJ della capitale, organizzai con lui un festival nel 98 per festeggiare i 120 anni della musica elettronica. Quindi ci fu questo festival di 4 giorni in cui, oltre ai contemporanei, c'erano anche strumenti che hanno origini un po' più antiche, come il theremin, che per chi non lo conosce praticamente sfrutta delle frequenze e, senza toccare lo strumento ma soltanto utilizzando il movimento delle mani, produce un suono. La sigla di Star Trek per esempio contiene quel suono che sembra una voce di donna un po' stridula, quello è il theremin, ma venne usato anche dai Beach Boys e venne usato anche appunto tempo prima. Ah, ok, è interessante. Insomma. Uno dei tanti, insomma. Simone, sarà contento. Poi i Beach Boys, insomma, ci hai fatto un'illustre citazione, insomma, quindi abbiamo ben capito. E quindi ci parlavi proprio di Max Durante. Tu hai collaborato molto con questo DJ piuttosto famoso nell'ambito elettronico. Sì, è noto appunto per essere uno dei DJ di musica elettronica qui a Roma. Ha partecipato anche lui a diversi rave e io ho collaborato con lui per lungo tempo e ancora collaboro con lui. Infatti sono uscite recentemente alcune tracce nuove che si trovano anche su SoundCloud, in cui abbiamo collaborato. È stata comunque un'esperienza molto interessante lavorare con lui, perché poi lui magari si occupa più delle ritmiche, cura il suono, mentre io sono più legata alla melodia, curo poco il ritmo, anche se in realtà è importante anche quello. Preferisco magari occuparmi della voce o del suono più che della sessione ritmica. E quindi ci completiamo in un certo senso. C'è anche un'attenzione ai testi che sembra quasi imprevedibile, insomma, però c'è, insomma, si percepisce. Sì, ma quello deriva dal fatto che comunque a me è sempre piaciuto scrivere anche piccoli racconti, e nel momento in cui scrivo divento qualcun altro, è come se recitassi, interpretassi un ruolo. Per cui appunto ogni canzone è come se ci fosse un personaggio diverso, come la ragazzina viziata che c'è in un brano che si chiama Accelerate, dove praticamente c'è questa ragazzina che dice: vorrei comprarmi un'auto nuova, una Ferrari o una Porsche, e correre a tutto spiano, come quella che magari nel brano che potremmo sentire dopo, che è Shape, dove il personaggio praticamente dice: in questo momento vorrei avere in un frammento l'immagine di tutta la mia vita, una fotografia che riprenda tutta la mia vita. Va bene, allora ascoltiamolo questo Shape, sentiamo di cosa si tratta. Ok. All that I have is a shape of my new day. Allora, siamo tornati qui, qui sempre di tutto un podcast, non vi abbandoniamo, e stiamo sempre con Katie, che ci parlava appunto della sua esperienza come cantante e musicista di musica elettronica, E Katie, io ti volevo chiedere, abbiamo sentito comunque che hai collaborato già con un grande DJ e molto importante nell'ambito romano, ma non solo, mi sembra di aver capito, anche europeo, internazionale. E anche tu comunque lavori nell'ambito europeo, internazionale. Quali sono le difficoltà che si incontrano in questo ambito musicale? Perché insomma, la musica purtroppo, soprattutto qua in Italia, non c'ha nessun tipo di categoria. Penso che se parliamo di livello artistico, comunque è sempre una lotta. Bisogna sempre cercare di essere forti e non sentirsi mai arrivati in nessun caso, perché veramente non c'è nulla di sicuro ed è anche molto difficile riuscire a farsi capire dalle persone che ci sono intorno. Soprattutto poi in Italia c'è poca comunicazione a livello dei media per quello che riguarda le cose un po' più alternative. Cioè, se noi accendiamo la radio, alla fine quello che sentiamo sono sempre i soliti brani commerciali che comunque sentiamo un po' ovunque. È raro trovare qualcuno che osi e che provi a fare qualcosa di un po' alternativo. Ma non mi riferisco solo all'elettronica, mi riferisco proprio a tutta la musica. Non so, a me le cose troppo semplici, troppo orecchiabili non mi sono mai piaciute. Non mi limito solo alla musica elettronica, perché poi nel mio tempo libero ascolto un po' di tutto, cioè dal rock al jazz. Mi piace spaziare, ecco, sperimentare. Cosa ascolti? Perché poi uno fa un po' etichette, no? nel cervello, che è brutta come immagino. Però magari dice: lei fa musica elettronica, quindi ascolterà dalla mattina alla sera solo musica elettronica. Ma va un po' a seconda anche dello stato d'animo. Diciamo le mie proprie origini, ciò che mi piaceva proprio a livello musicale in origine, erano sicuramente le cose un po' più dark, punk, non so, Cure, Joy Division, che poi anche loro comunque hanno subito evoluzioni e si sono poi aperti comunque a sperimentazioni e cose un po' più, non so, anche Joy Division, i membri che sono rimasti hanno creato New Order, e poi gli Electronics, che comunque facevano anche loro poi musica elettronica, come se per coincidenza avessero seguito un po' un percorso che ho seguito spontaneamente anch'io. Però ecco, poi mi piace ascoltare anche altre realtà, ci sono molti altri gruppi anche italiani, sì, romani. Mi vengono in mente, poi non lo so se vengono considerati, però ci sono alcuni membri dei Subsonica che comunque hanno preso un po' una deriva elettronica. Sì, non mi fanno impazzire, diciamo, no, così. Però comunque, rispetto a ciò che è una realtà italiana, si sono un po' allontanati da quello che è un discorso commerciale. Forse loro un pochino, sì, ecco, si sono un po' scostati dalla musica tradizionale. E quindi comunque sono da apprezzare sotto questo punto di vista. Poi a me personalmente, cioè, non mi piacciono molto. Ci sono alcuni brani, sì, però insomma. No, ma io non parlavo proprio di Subsonica, parlavo di alcuni membri che avevano fatto proprio un esperimento elettronico, però adesso non mi ricordo il nome, dovrei... Beh, anche Blue Vertigo, sì. Lo stesso Morgan, ma anche... oddio, come si chiama? Aiuto. La tipa dei 99 posse, la cantante Meg. Anche Meg comunque poi si è distanziata, ha lasciato i 99 posti e si è buttata verso l'elettronico, quindi sì. Insomma alla fine un po' le strade si collegano. Poi mi piace molto il New Wave, quindi Visage, Human League, Gary Newman, anche i Duran Duran. Cioè anche loro comunque nel periodo in cui sono cresciuta, negli anni 80, c'era quella musica che comunque era sì allegra, spensierata, però mi sembrava costruita con un pochino più di passione rispetto a a certe cose comunque spensierate del momento. Che io non li ascoltavo, durante. Beh, tu sei giovane. Ormai siamo le buone a 50 anni. Me li sono risparmiati, quindi devo dire che non lo so. Non posso replicare perché non lo so. Poi vabbè, ascolto anche, se mi capita, anche heavy metal, se sono particolarmente arrabbiata, Iron Maiden a tutto volume, mi sfogo. Quindi tutto, insomma, sì. non è un mondo chiuso a se stesso, insomma. No, non mi piace crearmi dei limiti, perché comunque penso che c'è sempre da imparare qualcosa. E per me, io provo proprio un amore viscerale per la musica. Io non potrei immaginare la mia vita senza la musica, cioè sarebbe per me una sofferenza. Ho capito. E beh, dopo questa bella dichiarazione, insomma, che comunque la cosa importante nella vita è fare le cose con passione, quindi sì. Se uno c'ha, che sia musica elettronica o che sia, che ne so, scrivere barzellette, basta che lo fa con passione, quello tutto, è importante, è tutto importante. Sì, quindi, anche perché, come si dice appunto, art doesn't pay the rent, che appunto dice con l'arte non paghi l'affitto. No, quindi difficilmente, no. Quando fai qualcosa che ti piace e che ha passione, a meno che, insomma, ci sono ovviamente dei casi fortunati, però tocchiamo questo tasto dolente. Insomma, tu sei famosa in tutto il mondo perché è una realtà, quindi bisogna affrontarla. Noi poi siamo famosi per mettere il dito nella piaga, quindi cioè sei famosa almeno in tutta Europa o comunque in molte parti d'Europa o diciamo in tutta Italia. Lavori abbastanza, vendi abbastanza CD, lavori, fai abbastanza serate, però comunque non ci mangi questo lavoro, purtroppo. No, è difficile, cioè comunque penso che, ripeto, o sei fortunato e quindi hai alle spalle qualcuno che crede in te, e mi riferisco magari a delle etichette o non so, parlo di etichette discografiche o dei giornali, delle radio, che quindi ti supportano e ti aiutano a farti conoscere, a far conoscere quello che fai. Altrimenti da soli, sì, è vero che c'è internet, che in un certo senso adesso è un grosso aiuto, e rispetto a quando ho cominciato io era ancora più difficile, però comunque bisogna sempre stringere i denti, perché è anche vero che con la tecnologia che avanza chiunque può fare musica e quindi diventa molto più semplice, ci sono tantissimi programmi che sono intuitivi, quindi anche il ragazzino di 14 anni, se non più piccoli, si mettono a suonare e magari con un po' di fortuna, cioè, tirano fuori qualcosa. Arrivano. Di carino, sì, quindi la concorrenza c'è, per questo dico non bisogna mai sentirsi arrivati e andare avanti sempre con passione, anche perché di schiaffi se ne ricevono tanti. Sì, sì, purtroppo bisogna saper subire bene. Ma avere il coraggio comunque di non farsi prendere il sopravvento, di non far prendere il sopravvento alla delusione, insomma. Sì, sì, sì. Perché poi quella è la cosa principale. L'aspetto principale, il coraggio e la passione. Allora, ascoltiamo un altro brano. Sì. E presentacelo te, spiegaci un po' di cosa stiamo parlando. Allora, il prossimo brano si chiama Shock, sempre preso da High Heel Shoes. E qui, se vogliamo, si affronta un po' il tema del sociale. E praticamente si parla delle persone che continuano a vivere la loro vita calpestando tutto quello che accade. Non so, ci sono persone che muoiono di fame, ma loro continuano ad andare avanti come se nulla fosse. Ho capito. Ok, ascoltiamo Shock. Dying in the street. They can kill you. Allora, Katie, parlavamo qualche minuto fa, prima di ascoltare questo bel brano. Io ti faccio ancora i complimenti, perché grazie. Poi uno non si aspetta di ascoltare musica così buona, insomma, non perché c'è la musica elettronica non sia buona, però c'è stato prima, come ripeto, una piccola disquisizione, quindi... Un nuovo adepto. C'era chi sosteneva che bastava schiacciare qualche pulsantino e due campanellini e facciamo la musica, sì, elettronica, esatto. Insomma, alla faccia loro. Invece la musica elettronica è una bella cosa, è diversa, cosa. E ci è piaciuta, ci sta piacendo molto, e sono sicura che anche gli ascoltatori apprezzeranno molto. E a proposito di sconforto, io so che tu avevi un aneddoto da raccontarci. Sì, praticamente ho avuto modo di suonare dal vivo insieme a Max Durante nel 2004 a Villa Ada per Roma Incontra il Mondo Elettroma. È stato il vero primo live importante, perché c'erano comunque molte persone e nonostante, insomma, i giudizi fossero stati positivi, forse perché io mi aspettavo qualcosa di più da me stessa, sapevo che potevo fare di più. Ho avuto poi dopo un attimo di cedimento e pensavo che no, non fossi tagliata per fare questa cosa. E quindi avevo deciso di distanziarmi un po' dal fare musica. Ero tornata alla mia attività di vendere artisti, di cui magari vi spiego meglio dopo. Andai a Londra e al ritorno trovai in un negozio di dischi, scontato credo a 2 o 3 pound, un libro che parlava della storia di Mark Almond, che si chiama Tainted Life. Molto interessante, lo consiglio, perché poi si legge veramente in un soffio. E lì parlava appunto del suo approccio con un produttore chiamato Stivo, un personaggio particolare, leggendo il libro poi si riesce a capire. E niente, quindi avevamo comunque pronti dei pezzi e questa cosa mi aveva dato un po' di coraggio. Ho detto: ma sì, proviamo a mandare i pezzi anche a loro. Per cui scelsi 4 brani e li mandai appunto alla Sun Bazaar a Londra. E non sapevo che nel frattempo loro stavano cercando nuovi musicisti. Quindi è stata una sorta di coincidenza, di destino che mi ha fatto comunque incontrare questo produttore. E alla fine il CD è uscito, c'è stata anche una bella presentazione con molti artisti dell'etichetta. Devo dire che è stata un'esperienza veramente particolare, perché sembrava uno di quei film in cui tu ti trovi in una specie di vecchia fabbrica londinese, in cui tutti i personaggi strani, chi dark, chi vestito da rocchettaro, veramente una situazione particolare. Ognuno si presentava: ciao, io sono Tizio, ho fatto quello, tu chi sei, cosa fai? E sembrava uno di quei film americani in cui sono tutti a ricevimento, ah, piacere, io sono questo. E, però insomma, alla fine ho capito che da una coincidenza a volte può nascere poi comunque un'occasione importante. Sì. Perché alla fine comunque il CD è uscito, è qua e boh, anche se è passato un po' di tempo sono orgogliosa. Ma ancora avanti poi. Sì, e questo mi ha ridato. Sì, Sì, e mi ha ridato coraggio. Questo mi ha ridato poi la forza di continuare e comunque di non demoralizzarmi. E ho saputo anche riapprezzare quel live che poi avevo registrato, l'ho riascoltato nel tempo, ho detto ma no, non era poi così male. Quindi non bisogna essere poi così severi con se stessi. È così. E quindi Londra comunque ti ha portato un disco, è una bella esperienza. Sì. Stai cercando di ripeterla, spero che stai comunque lavorando a qualcosa di nuovo. Ma sono uscite alcune cose nuove a settembre, sempre collaborazioni in cui ho prestato la mia voce per dei brani. Però ecco, adesso a dire il vero vorrei impegnarmi e trovare il tempo per creare qualcosa di nuovo e magari anche qualcosa che sia proprio mio, perché finora ho sempre collaborato. Vorrei veramente cercare un ritaglio di tempo per fare qualcosa che sia veramente mio dall'inizio alla fine, anche se a volte non avendo un vero e proprio studio ma delle cose arrangiate è un po' difficile. Poi se ci sono anche collaborazioni ben vengano, perché comunque sono cose stimolanti, è bello incontrarsi con modi di operare diversi. Quindi insomma, sì, sono d'accordo, insomma, quindi allora, in bocca al lupo, noi aspettiamo qui a Di Tutto un Podcast, ti aspettiamo per presentare il tuo nuovo album da solista, insomma. Sì, vedremo cosa succede, magari a volte è proprio il destino che poi decide per te, perché allo stesso tempo mi piace anche comunque mettere musica. Mi è capitato di fare serate appunto mettendo dischi, sono una super amante del vinile, metto anche CD ovviamente perché uno poi si adegua alla certo. tecnologia, non possiamo restare troppo indietro, altrimenti che però elettronica sarebbe? Infatti è un po' controsenso, insomma. No, vabbè, il vinile ha il suo fascino, sì. Però si guarda anche al futuro. Quindi alla fine uno utilizza più o meno tutto, però poi ci sono delle chicche, delle cose magari un po' più vecchie che hanno il loro fascino, la copertina in cartone, la mutanda che si strappava, per chi non lo sa la mutanda è quella custodia di carta dove si infilava il vinile stesso. Quindi se mi capita anche serate un po' particolari, suono sempre, non suono cose molto ballabili, comunque sono sempre cose magari chill out, elettronica d'ascolto, lounge, sempre cose un po' più riflessive, sono meno danzereccia nelle mie selezioni. Beh, è un po' più d'ambiente, insomma, sì. Magari da serata, da aperitivo, da... Sì. Comunque musica in sottofondo, musica che comunque fa compagnia ma non intrattiene la persona, insomma le persone che sono nel locale, ma le accompagnano. Sì, beh, per questo vorrei citare comunque forse una delle esperienze più belle che ho fatto a livello di selezioni musicali, che è stato 2 anni fa all'Half Dive Festival, che è un festival che si tiene ogni anno sul tetto di casa di un mio amico che poi anche lui è un produttore, e praticamente ha questo tetto molto grande dove ogni estate per 4 appuntamenti ospita artisti un po' alternativi, sempre nell'ambito della musica elettronica, in rigoroso silenzio. Qui a Roma? Sì, qui a Roma. Poi quindi, insomma, quando ci sarà, al corrente. Ecco, facci sapere perché lo diciamo agli ascoltatori. Noi l'altro anno dovevamo venire ma abbiamo disertato. No, ma è un'esperienza bellissima perché ci sono questi vecchi ruderi romani, più o meno l'ora è al tramonto, quindi si vedono passare gli aerei perché comunque è vicino all'aeroporto di Ciampino. Con questo tipo di musica poi si vedono anche i vicini tutti affacciati a curiosare, c'è molta gente, c'è molto rispetto per la musica, anche se non ballabile, però c'è silenzio, si ascolta e è veramente un'esperienza molto molto bella. Può venire chiunque, insomma, quindi c'è una sorta di passaparola per quanto riguarda gli inviti. L'invito, vabbè, noi veniamo, facciamo una comitiva di Tutto un Podcast, sì, ci fate entrare. Siamo curiosi, insomma, di vedere questa di di ascoltare è questa musica, una bella musica esperienza in modo particolare. Poi se ci sono altre serate a Roma in programma, ci sono serate in programma per adesso? Per il momento no, perché devo stabilizzarmi prima io, visto che sono un po' sempre in giro. Mi definisco la donna con la valigia perché sto sempre in giro, quindi devo trovare prima la pace di me stessa e poi ridedicarmi un po' a quello che è. Ok, allora, quindi ti facciamo ancora l'in bocca al lupo, ascoltiamo un'altra canzone e poi parliamo di un'altra cosa interessante, sempre riferita alla musica, che però ti vede protagonista in un altro modo. Ok, e il prossimo brano si chiama Scheme, sempre tratto dal CD High Heel Shoes. Questo è più una sorta di poesia, nel senso che ho scelto più che altro, skim significa scremato, il latte scremato e lo skim milk, quindi è una scrematura, è una scelta di parole che suonano bene tra loro, in un certo senso hanno anche un significato abbastanza potente, però non è tanto il significato in sé quanto il suono che producono e la musicalità che hanno. Ed è un po' più particolare rispetto agli altri, che forse sono un po' più orecchiabili. Questo è un pochino più particolare. Ok, allora ascoltiamo questo altro esperimento. Siamo tornati qui per l'ultima parte di questa intervista, che purtroppo voi siete fuori dall'ascolto di Fuori Onda, ascoltatori, però credetemi, ci stiamo proprio divertendo. Io sono veramente contenta di avere Katie qua, perché mi sto proprio divertendo, sono contentissima, quindi finalmente... Una ragazza spiritosa che... È stata la fase precedente soprattutto, quella sì. più divertente. Sì, sì. E, Katy, vogliamo parlare di un'iniziativa che ti ha visto partecipe in prima persona, insomma. Io ho letto nei tuoi appunti di un'agenzia di booking. Sì, praticamente... nel 94 mi sono trasferita a Zurigo perché comunque promuovevo diverse serate, e tra cui la street parade, chi c'è stato sa di cosa si tratta, una grande parata per strada con carri, un po' come la love parade, però in Svizzera, con carri, con musica techno. E quindi io facevo la promozione in Italia per questi eventi, organizzavo pullman e portavo gente da qui a queste feste, e da lì ho avuto modo poi di conoscere diversi artisti, e mi sono trasferita a Zurigo ed è nata l'idea di creare una booking, appunto un'agenzia che vendesse DJ e artisti. È nata in modo principale per promuovere tutta la scena di DJ romani, tra cui ci sono molti personaggi interessanti, e a parte lo stesso Max Durante, anche Leoni Baldi, Lori D, Marco Passarani, insomma ci sono molti personaggi interessanti che magari si conoscono soltanto per gli addetti ai lavori, insomma, o chi è appassionato di questo tipo di musica. E da lì poi piano piano mi sono ampliata e ho iniziato appunto a promuovere anche altri artisti, tra cui appunto l'etichetta inglese la Reflex, che era un'etichetta, cioè ancora esiste, un'etichetta di Londra, l'etichetta anche di Aphex Twin, che forse è un po' più noto, altre etichette come la Scam, poi sono stata una tra le prime a promuovere Anthony Roder, che è un altro artista tedesco col quale ho collaborato, e in questo caso in un brano, e anche artisti americani, insomma piano piano la cosa ha iniziato ad allargarsi, e è stata una bella esperienza perché ho ricevuto veramente tanto da questi personaggi, perché poi li curavo, li seguivo durante ogni serata. Quindi non era solo il vendere, ma c'era proprio un contatto con le persone, li seguivo dall'inizio alla fine, li andavo a prendere all'aeroporto, li portavo in albergo, li andavo a prendere, li portavo alla serata e poi li riaccompagnavo, insomma, fino alla fine della loro avventura musicale. Quindi insomma un bel lavorone, facevi tutto da sola o eravate un team di persone? C'era un altro ragazzo che si occupava più che altro della parte grafica, che aveva un atelier grafico, e quindi lui mi aveva dato uno spazio in cui io col computer, insomma, prendevo contatti, lavoravo, e poi lui si occupava di tutte le cose a livello grafico dell'agenzia. E poi per il resto più o meno facevo, insomma, quasi tutto da sola, poi a seconda del tipo di cose, anche perché poi mi sono dedicata anche a occuparmi di eventi. Quindi da lì appunto questo festival di cui parlavo prima, più altre serate, magari anche one night dedicate alle etichette stesse, e insomma mi sono data un po' da fare, ho cercato di inserirmi nel mondo musicale a 360 gradi, cioè di conoscerlo dalla promozione di un evento alla promozione di un artista, al mettere musica e crearla. Cioè mi sono immersa totalmente. È comunque una cosa impegnativa, per quello ti ho chiesto se eri tu da sola o principalmente, perché un evento sì. Comunque è principalmente sì, poi gli eventi più grandi ovviamente non potevo operare da sola, c'erano comunque altre persone che collaboravano con me, sì. E questa agenzia opera ancora adesso o... No, perché ovviamente essendo comunque un tipo di lavoro impegnativo, quando poi sono tornata in Italia ho proseguito per un po', però avevo deciso comunque di essere un po' egoista tra virgolette e pensare a me stessa, perché un po' come diciamo una cellula impazzita che uno dice no basta, adesso voglio fare questo, voglio dedicarmi a me stessa. Ho un po' lasciato andare tutto il resto e... Perché comunque le serate erano più che altro per gli altri e... Esatto, e non per me. Quindi diventava difficile poi proporre se stessi. Certo. Per cui cioè, comunque avevo ricavato delle esperienze importanti e ho deciso che poi era il momento di lasciar perdere. Anche perché poi diventava anche difficile riuscire a fare più cose insieme e farle bene. Certo. Qualcosa andava a discapito dell'altra. Al momento tu sei in cerca di un'etichetta, no? Abbiamo detto più o meno prima. E sì. C'è già qualche contratto che si annusa nell'aria, qualcosa, o è tutto un punto interrogativo ancora? Ma per ora è un po' un punto interrogativo, perché poi c'è sempre forse anche un po' l'idea di sfruttare un po' il digitale, magari creare qualcosa che sia anche un'etichetta digitale con una distribuzione con online, comments, esatto, insomma, quello che facciamo noi. Quindi non sei del tutto contraria a utilizzare No, perché poi alla fine su certi tipi di musica forse sì, in questo momento si ricava più dalle serate che non dalla vendita stessa, cioè più o meno quasi tutti su certi livelli è sempre stato così. Sicuramente la serata ti porta più di quello che può portarti un reddito a livello di produzione. La produzione, vabbè, è come un figlio, quindi crei qualcosa di tuo ed è un modo per farsi conoscere, poi da lì si va alle serate. Il passo seguente sì, è fare le serate. Ok, allora Katy, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per tutto quanto, insomma, perché l'abbiamo fatto già più volte, però ci piace sostenere questi progetti, ci piace sostenere gli artisti che con coraggio e con forza di volontà cercano di andare avanti, insomma. Poi soprattutto ci piace sostenere, ci tengo a dirlo, gli amici, gli amici, quello soprattutto, però ci piace sostenere anche i musicisti che valgono. Grazie. Che valgono, insomma, quindi la qualità è importante, e in questo mondo in cui soprattutto dal punto di vista musicale la qualità si è persa un po' per strada in tutti gli ambiti, che si parli di musica italiana leggera, rock, sì, musica internazionale, anche musica internazionale purtroppo, quindi insomma c'è sempre qualcuno di interessante che vale la pena di seguire, sì. Però è sempre una pietra in mezzo a tanti cespugli, insomma. Sì. Quindi, sicuramente sono stata fortunata perché intorno a me ho avuto tante persone brave, abili, e quindi il loro aiuto mi ha dato molto. Cioè non ho fatto tutto da sola, non voglio prendermi i meriti che non ho, e quindi insomma è stato importante per me incontrare determinate persone e collaborare con loro. Niente, volevo dire appunto che questi pezzi, se volete poi saperne di più, potete anche visitare il sito di MySpace, www.myspace.com/mekamek. Metteremo tutto sulle note dell'episodio, quindi tutti gli ascoltatori sapranno come ritracciarti sicuramente. Ok. Katy, io ti ringrazio, ti faccio presentare l'ultimo brano e insieme salutiamo tutti gli ascoltatori di tutto un podcast. Allora, l'ultimo pezzo è High Heel Shoes ed è la versione remix che si trova sul CD. E qui in questo caso il testo parla di una ragazza un po', diciamo, un po' scandalosa, nel senso che adora andare sui tacchi a spillo, provocare. È un pezzo che ricorda un po' anche il fetish, è un po' osé, diciamo, un po' zozzetto. E quindi con questo salutiamo tutti gli ascoltatori e vi ringrazio per aver ascoltato le mie eresie. Ciao a tutti ragazzi, ciao. I like to wear high heel shoes. Delicious. Quasi 30 anni, lavoratore precario, iscritto per pura sete di conoscenza al secondo anno presso una facoltà che l'attuale ministro dell'istruzione ha definito amena e con un futuro davanti tutt'altro che rose. Mi si dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, che è fondata sulla famiglia. Tutto bellissimo, per carità, ma chi o cosa garantisce questi diritti? Davvero, il mio problema non è che tipo di pensione percepirò e quanto percepirò. Il mio problema è arrivarci. Abbiamo il diritto di parola, ma questo diritto formale implica che ci sia qualcuno disposto concretamente ad ascoltarmi? Io sarò romantico, ma credo ancora che la risposta sia sì. Ed è per questo che ho deciso di parlare, è per questo che ho deciso di urlare che voglio che i miei diritti costituzionali siano garantiti. Voglio che le riforme siano tali e non un ricalco dei provvedimenti precedenti che si sono rivelati fallimentari. Si parla spesso di dare ascolto alle minoranze, ma io credo che in questo periodo di incertezza vada tutto stravolto e tutto rimesso in discussione, gli stessi concetti di maggioranza e minoranza. La maggioranza, infatti, allo stato attuale delle cose, sono quelli che si trovano nella mia situazione. Spero che questo non sia il solito messaggio di SOS nascosto nella bottiglia galleggiante, ma sia un appello a fare qualcosa di concreto partendo dalla volontà del popolo. Prometto di impegnarmi al massimo nel mio piccolo, ma vorrei che i grandi si decidessero almeno a darmi ascolto. D'altronde, l'Italia non è solo la Fiat. Voce alla rivolta. Invia la tua voce a iniziative@italianpodcastnetwork.it. Compensiamo sempre. Questa era Give Me Hell, che quale titolo migliore per una canzone rock dei Drop Alive, che abbiamo trovato ovviamente sempre su Giamendo, anzi addirittura proprio nella sezione Top Rock di Giamendo. E quindi entriamo nella sezione annunci. Quello che stiamo per ascoltare è lo spot del seguitissimo programma Archeologia Videoludica e dell'alleanza con hotgamesitalia.net, un'importantissima alleanza che grazie ad una lenta integrazione sempre maggiore competenza darà sempre maggiore competenza all'interno di questo nuovo progetto e di questo podcast videoludico. Quindi ascoltiamo questo simpaticissimo spot e salutiamo in particolare Giovanna, perché è stata bravissima. Non è possibile. I miei calcoli erano esatti. Jones, credo sia ora di rinunciare. Ascolta. Italian Podcast Network presenta Archeologia Videoludica, alla scoperta del videogioco. Il più affascinante e vincente viaggio del professor Jones tra gli oscuri scavi della storia videoludica. Marco Gualdi nei panni del distruggitore, Giuseppe Scaletta nei panni del mitico professor Jones, dall'esperta e incredibile regia di Simone Pizzi e Luca Casciola. Da oggi nasce l'importante unione con hotgamesitalia.net per rendere la trasmissione semplicemente la migliore. www.archeologiavideoludica.net, sempre e solo su Italian Podcast Network. Ok, spot che è nato grazie al contributo di tutti, un pochino di tutti quelli che fanno parte ovviamente di Archeologia Videoludica, più o meno ci siamo divertiti a farlo, speriamo vi sia piaciuto, ma abbiamo anche un concerto importante da segnalarvi che si terrà a Roma a breve e noi ci teniamo particolarmente perché parliamo dei Mardi Gras che insomma, Michela, ce l'abbiamo già fatti ascoltare, no, sulla nostra trasmissione. Sì, i Mardi Gras appunto apriranno il concerto romano di Billy Bragg l'11 maggio proprio al Circolo degli Artisti, che è un importantissimo locale qui a Roma, e noi vi consigliamo di andarlo a visitare, di andarlo ad ascoltare, scusate. E Billy Bragg è un esponente della canzone di protesta degli anni Ottanta, è nato nel 1957 e il vero nome è Stephen Williams. Il sound ricorda molto quello di Bob Dylan, quindi insomma direi che è molto interessante e vi consiglio di andare ad ascoltare. E intanto ascoltiamo un altro brano, A Part of Me dei Last Sunday. The desire deep inside my heart. into the sun, it's showing up, the desire deep inside my heart. Questa è Viva l'Italia! Fatti, episodi, dichiarazioni che rendono un italiano profondamente orgoglioso. Intanto lasciatemi ribadire un piccolo concetto, perché sono molto d'accordo con Lupi sul fatto che non si possano affidare le leggi, diciamo così, ad una votazione, come dire, spontanea della gente, eccetera, eccetera. Ma è proprio questo lo spirito però del referendum, perché lo spirito del referendum non è quello di scrivere le leggi, lo spirito del referendum è quello di abrogare quella parte delle leggi che non ci piacciono. Quindi comunque resta poi il Parlamento che deve scrivere le leggi giuste, eh? Questo è, diciamo, perlomeno lo spirito con il quale i nostri padri fondatori hanno pensato il referendum. Allora, però volevo chiedere a lei, sulla sicurezza, che poi è il tema più forte sul quale gli italiani, perché lei insiste che non ci dobbiamo far prendere dal panico, perché ci sono dei dati razionali che ci dovrebbero invece far riflettere? Sì, no, certamente i fatti del Giappone, così come peraltro anche i fatti di Chernobyl, dimostrano che il nucleare è la tecnologia di produzione elettrica più sicura che c'è. Su questo non c'è dubbio. Figurati le altre. Vediamo perché. Perché? Allora, innanzitutto, in Giappone è successo uno tsunami, 10.000 morti, 10.000 dispersi. In questo momento in Giappone ci sono 50 reattori nucleari che stanno funzionando in questo momento, a quest'ora. Allora, la domanda cruciale da porsi è questa: se in Giappone noi diciamo non vogliamo il nucleare perché avete visto in Giappone, bene, se in Giappone non ci fosse stato neanche un reattore nucleare, ci sarebbe stato un morto di meno, uno in meno andato all'ospedale, uno che si è fatto un ferito di meno. Fino ad ora. Ma cos'è, un film questo? No, non è un film. Sto dicendo che fino ad ora è un film dell'orrore. Quello che è successo in Giappone non ha mandato nessuno dal punto di vista nucleare, né al cimitero né all'ospedale. Questo è un fatto. Andiamo a Chernobyl. Vuol dire il suo curriculum scientifico, professore. Sì. Scopriremo poi. Non ti Finale, siamo arrivati al finale della nostra trasmissione. Noi siamo intervenuti poco, abbiamo parlato poco e niente. Sta botta sembra una puntata di disimpegno, in realtà non è vero, non è proprio così, eh? Cioè, no, è una puntata serissima, sì, noi sì. L'abbiamo lavorata mesi e mesi. No, il problema è che abbiamo avuto una settimana di forti malattie dentro casa. Sì, sì, c'è stata la malattia. Cioè l'appestazione. La febbra. Quindi insomma ci siamo un attimo guardati e abbiamo detto ok, a parte la stanchezza e tutto, di tutto un podcast ci sta aspettando, e grazie al cielo avevamo pronta questa intervista che aspettava, non aspettava nient'altro che essere mandata in onda, e quindi abbiamo colto l'occasione. Ringraziamo ancora Kay per averci concesso questa intervista, le facciamo un in bocca al lupo per i suoi progetti e la salutiamo e basta. No, che basta. A parte che oltre le linee nemiche, il brano dei Rain che abbiamo appena ascoltato, ci siamo scordati di salutare tutti quanti. Di dirlo, insomma, e poi ci sono i feedback, insomma, che dobbiamo salutare, perché ti ho stampato un foglio che ovviamente tu non hai a portare di mano. Ma per fortuna c'è internet che ci viene incontro, perché insomma possiamo controllare in tempo reale quello che io inutilmente in realtà ti avevo stampato. Quindi era semplicemente per vedere. Mamma mia, che noia, ragazzi. Se eri attenta, se eri precisa, se stai crescendo un pochino dal punto di vista professionale. Ma basta. Vedo che no, tu mi manchi, insomma, basta. Da questo punto di vista, e non ci siamo. Basta. Non ci siamo. Okay, basta. Allora, salutiamo i feedback che abbiamo ricevuto sul blog www.ditutounpodcast.wordpress.com. Sì, salutiamo il misterioso Giacobino, che salutiamo con grande affetto e insomma lo aspettiamo di rivederlo, e a lui facciamo un saluto particolare. Poi c'è Fabio il bravissimo presentatore, anche lui nostro collega in qualche modo, anche se molto più professionale di noi, questo bisogna ammetterlo, il presentatore di Rock City Night, e lo salutiamo con grande calore e speriamo di poter presto incontrarci, come avevamo detto un po' di tempo fa. E salutiamo Barbara, la nostra Barbara Favaro, la presentatrice di Cubicolo 33, e a lei facciamo un in bocca al lupo, anche se arriverà un po' tardi, per uno spettacolo che sta curando, che credo sarà questa sera. E salutiamo la mitica Adele, perché lei non manca mai, non ci fa mai mancare il suo appoggio. Nino, che anche lui è sempre presente. E anche il nostro amico, cioè Emme il mostro, perché d'altronde è lui, sapendo di dover preventivamente intervenire, dice tanto fammi mettere le mani avanti, li saluto, che lui è un mostro, ma poi in realtà è un mostro buono, è un mostro buono, molto buono, e noi gli vogliamo bene. E adesso direi che abbiamo detto tutto, possiamo anche starci, insomma. Sì. www.ditutounpodcast.wordpress.com. Ok, poi la nostra posta elettronica, che è usatissima, proprio prende fuoco addirittura. Di tutto un podcast @gmail.com. La che non ci abbandona mai neanche. Ricordatevelo sempre, quello è fondamentale. Poi abbiamo il nostro Twitter, che pure quello oramai è praticamente in disuso, praticamente, cioè è diventato quasi, ecco, anche quello un qualcosa di archeologico. Però c'è il mio. Però c'è il mio, c'è che quello, ho utilizzato. Esatto, quindi se non vedete segni di vita su Di tutto un podcast, che trovate sempre con la su Twitter, c'è il... Cercate il mio, Michela DTP, oppure Italian Podcast Network. Esatto, che quello invece un po' si aggiorna un po' più facilmente, Italian Podcast Network, che comunque segnala tutte le trasmissioni del network. Quindi vi consigliamo e di poi fare c'è un Facebook. Giro. Facebook, sì. Giusto? Facebook, sì. Che abbiamo la nostra nuova fanpage, che sta piano piano crescendo, ve lo ricordate il gruppo vecchio, chiuso, tutto quanto, quindi anche lì Di tutto un podcast, invece scrivetelo in maniera regolare, spaziata, Di tutto un podcast, ci trovate, fate mi piace e seguirete anche lì quando ci saranno le nuove pubblicazioni. Io vorrei approfittare di questo spazio, perché mi è venuto in mente adesso, per salutare una persona, per fare gli auguri a Sci, che è un personaggio delle vignette di Lorenzo Calza. A chi? Che ieri ha compiuto un anno, quindi vorrei fare i grandi complimenti al suo vignettista e anche a questa protagonista delle pagine del Misfatto Quotidiano, così lo chiama lui. E insomma, tanti auguri, e so che è stato veramente un trionfo lo Scimob di ieri, quindi insomma voglio rinnovare i miei complimenti. Ok, allora oramai basta, abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, dalla prossima puntata si ritorna sulle barricate. Michela, ciao! Ciao a tutti ragazzi! E come sempre, alla via così!